Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Roberto Saviano, benvenuto negli studi di Radio 24. Grazie. Nel Sole 24 Ore, dunque, benvenuto. Perché Roberto Saviano è come te. Il ragazzo che sfida l'inferno di Gomorra ha occhi che vengono da lontano e un sorriso fragile, come le primule dopo la neve. Sorvegliato a vista dalle guardie del corpo, sul viso pallido, ai segni di chi porta sulle sue esili spalle il peso della battaglia contro una gorgone brulicante. Dai rifugi superprotetti, dove le minacce della camorra lo costringono a vivere, osserva e studia i movimenti del paese e soprattutto del suo mezzogiorno, le alleanze criminali, le contaminazioni politico-economiche, le nuove immigrazioni da sud a nord. I tentacoli della camorra li ha denunciati nel bestseller Gomorra e ora torna in libreria con La bellezza e l'inferno. Parla Roberto Saviano e dietro le parole di questo trentenne c'è la storia stratificata e dolorosamente tramandata di un meridione in costante apnea che rinnova l'antica questione meridionale. Il sud condizionerà l'Italia intera, disse già Giuseppe Mazzini ai suoi uomini, e all'insegna del grande vecchio, il ragazzo che oggi sfida l'inferno legge l'attualità d'Italia in questo incontro qui al Sole 24 Ore insieme al collega Marco Alfieri. Il primo spunto di questa chiacchierata parte dai dati ultimi delle elezioni, con i dati dell'astensionismo, con l'ombra dei brogli intorno a Napoli. Questi dati come li ha letti lei? L'astensionismo innanzitutto, appunto, è stato un danno ennesimo alla, come dire, alla possibilità di poter sognare una partecipazione reale e attiva alla cosa pubblica, diciamo. Il Sud continua a essere un bacino enorme di voti facili. Con voti facili intendo dire voti acquistati per poco o nulla. C'è sempre stato il voto di scambio, è sempre stata una prassi comune alla politica italiana, ma negli anni 70, negli anni 80 il voto di scambio era incentrato su un voto, un lavoro. Cioè il posto di lavoro era in qualche modo l'elemento attraverso cui passava il voto, l'impegno politico, se non addirittura le idee. Adesso 50 euro, 25 euro, un cellulare, partecipazione ai corsi di formazione professionali. Sono diventate le nuove monete, le nuove prebende di larga parte della politica meridionale, non soltanto. Il dato dell'astensionismo è un dato preoccupante perché sulle europee, dove c'era meno la possibilità di guadagnare dal voto, le persone non sono proprio andate. Nelle amministrative si guadagna invece tanto, guadagno un affitto di casa, guadagno la spesa pagata. Tutti questi esempi che io sto portando non sono inventati, sono in genere quelli che mappano sistematicamente le forze dell'ordine locali e che poi hanno difficoltà a dimostrare il voto di scambio, perché non c'è quasi mai una prova. Questa terribile peste del voto di scambio è uno delle maggiori responsabili, credo, della perenne alleanza tra organizzazioni criminali e amministrazione pubblica. E in tal senso c'è un cambiamento. Voglio dire, negli anni 90 la Cosa Nostra attaccata da Giovanni Falcone aveva un altro modo di fare politica e di relazionarsi alla politica. Oggi i cartelli criminali più avanzati, parlo della Camorra Casertana e dell'Andrangheta, sono organizzazioni che sanno bene che la politica è qualcosa da gestire con enorme cura. Con questo che intendo, preferiscono non mettere i loro uomini quando è possibile, ma cercare quanto di fare esattamente come possono fare i grandi gruppi imprenditoriali sulla politica. Intendo dire, Microsoft, BMW e altri grandi, Nike, fanno ovviamente pressione su dei governi attraverso il loro business, attraverso il loro potere economico. Sempre di più le mafie si stanno comportando così. Quando loro hanno il ciclo del cemento in mano, quando loro hanno i trasporti, quando loro hanno la gestione dei petroli, per esempio benzine, pompe di benzina bianche, trasporto della benzina, quando loro hanno questi punti nevralgici dell'economia, è ovvio che riescono a indirizzare voti, è ovvio che riescono a fare pressioni su come gestire i capitali che per esempio vengono dalla comunità europea. Il problema di tutto questo è che se si arriva a svalutare il voto per 25 euro, tu stai considerando quel voto, quella persona che voti, praticamente niente, come superfluo. Meno di quanto si dica siano stati pagati dei ragazzini per incendiare i cassonetti nei tempi dell'emergenza rifiuti. Sì, era forse più importante, appunto, vendersi per andare a bruciare in giro della città piuttosto che dare un voto. Viene visto come una cosa quasi del tutto inutile, che quindi ti dà una specie di piccolo privilegio momentaneo, ma che non va a determinare la propria vita quotidiana. Questo da un lato può sembrare un atteggiamento di indifferenza, cioè tutto sommato un ragazzo, o non soltanto un giovane, dice vabbè, chiunque c'è, poco cambia. Però bisogna andare a fondo, non c'è soltanto questa indifferenza, parlo per le mie zone, c'è anche un'altra coscienza, cioè chiunque andrà, tanto noi sappiamo chi comanda, cioè che va del rosso e il nero, che va del democristiano e il democratico, noi sappiamo benissimo quando c'è un problema chi comanda, e allora sembra quasi superfluo, cioè quello là è messo lì da qualcuno. Questo parlo soprattutto sulla politica locale, perché sempre di più le organizzazioni criminali mettono sindaci, assessori, consiglieri comunali, ma tendono quanto è possibile che la politica nazionale sia meno legata a loro, perché così i politici sono più liberi di agire senza doversi portare l'onta dell'incontro con le organizzazioni criminali. Questa è tutta una nuova fase del rapporto politica-mafia, che si è andato completamente rivoluzionando negli anni. Infatti secondo me è un errore continuare a studiare o immaginare il rapporto tra cartelli criminali e politica come era negli anni della Democrazia Cristiana o del Partito Socialista. Ora è davvero tutto cambiato e loro cercano la trasversalità. Infatti io non mi rivolgo mai nei miei appelli super partes, non mi rivolgo mai né a una parte né all'altra e non mi rivolgo neanche mai ai politici. Io mi rivolgo sempre all'elettorato, cioè voglio dire, anche nella mia vicenda privata io ho avuto una grande solidarietà dagli elettori centrosinistra, tantissima dagli elettori centrodestra, tantissima da chi ha il disgusto di votare. Io spesso mi chiedo, ma davvero gli elettori centrodestra sono contenti di questo tipo di come sono andate le cose, di questo tipo di comportamento spesso dei loro parlamentari? Davvero chi crede nei valori conservatori, chi è un liberale, chi ha dei valori diciamo opposti a quelli progressisti e democratici, davvero si riconosce in quello che sta accadendo in questo paese? Davvero l'elettorato meridionale non si rende conto, di centrodestra e di centrosinistra, di quanto siano infettati molti candidati, molti sindaci, molti presidenti di provincia? È davvero pensabile che l'elettorato sia tutto comprato, sia tutto corrotto, che esista una parte corrotta e una parte sana? Io non lo credo. Io credo che sia dovuto anche un po' alla voglia di mollare le cose, di tanto non serve a niente, il cinismo che nasce da un quotidiano dove pensa a campare, tanto non potrà mai succedere nulla di nuovo, e chi vuole che le cose cambino sta speculando su una tua aspettativa, vuole guadagnare o di denaro o di fama su qualcosa che ti vuole far credere ma che non realizzerà mai. Questo tipo di cinismo crea quella barriera che fa della politica italiana spesso un pantano, e fa della politica americana, ogni volta che un italiano vede le elezioni presidenziali si sente pieno di passione, sia che sia di simpatia repubblicana che sia di simpatia democratica. Quel tipo di questione manca completamente alla politica italiana, se non in pochissime persone che lo fanno quasi come missione. Negli appelli che io ascolto, ovviamente io li studio più nell'ambito dell'antimafia, della battaglia delle organizzazioni, ma in ogni tipo di relazione, anche mediatica, ci si rivolge sempre in maniera ideologica, cioè o ci si rivolge a chi la pensa in un modo o chi la pensa in un altro. Io, proprio perché parlo di legalità e quindi per quanto mi riguarda la legalità viene prima delle divisioni, non è il risultato. Cioè oggi appunto si crede che la legalità debba essere il risultato del percorso politico, ma se è così la cosa è molto grave, dovrebbe essere la premessa del dibattito politico. Proprio perché è così, io mi rivolgo agli elettori di centrodestra, cioè è nelle mani loro cercare, facendo attività o comunque coinvolgendosi nelle mani loro, cercare di non essere contenti quando accadono certe cose tra amministratori di centrodestra e mafia. È negli elettori di centrosinistra cercare di intervenire quando accadono certe cose tra amministratori centrosinistra e organizzazioni criminali. Non è pensabile che uno possa in qualche modo soltanto sottostare al voto di scambio, alla 50 euro, perché la 50 euro con cui tu ti vendi un voto la paghi a interessi usurai quando ti intombano i rifiuti vicino a casa tua, come succede in Calabria a Catanzaro, che gli vengono intombati i rifiuti tossici sotto le scuole, come quando ripaghi a interessi usurai questo voto di scambio quando le discariche in Campania si riempiono, diventano satolle, quando le organizzazioni criminali gestiscono gli operai edili sui cantieri, quando vieni assunto a nero, quando sei costretto a emigrare. Cioè voglio dire, il calcolo secondo me non è mai di convenienza. Yes we can to justice and equality, yes we can to opportunity and prosperity. È lontana l'America con i suoi sogni dalla campagna elettorale nostrana, sospira Roberto Saviano, che rimpiange politici che sappiano parlare al cuore. Cita il Sergio Cofferati dei 3 milioni al Circo Massimo e dall'altra parte Giorgio Almirante. Anche figure così, trascinatori di popoli, potrebbero risvegliare l'autentico gusto della passione politica e allontanarla dalle grinfie di chi invece vorrebbe solo utilizzarla. Storielle. Storiacce. Il volto del Cristo velato da una parte e i sacchetti di monnezza dall'altra. L'incanto del golfo, dimora dell'antica sirena e l'ombra guasta de O Sistema. A Napoli l'orrore della camorra convive con la gioia piena del suo ventre più autentico. Ecco la bellezza e l'inferno, che da queste parti non è un ossimoro ma un imprescindibile binomio che si rinnova da sempre. E questo è il titolo scelto per il secondo libro di Roberto Saviano, una lettura dell'attualità come questa riflessione sulle ultime elezioni, tornando anche nella sua Napoli, dove, dice, nell'ultima campagna elettorale non è stata mai citata, ma mai mai, la parola camorra. Tu sai che non si sola. Abbiamo parlato dell'astensionismo, concentrandoci anche un po' sulla campagna. È vero che c'è maggiore disinteresse forse rispetto ad una elezione amministrativa, però sappiamo anche come con le elezioni europee siano in ballo anche i finanziamenti, che è un elemento che in particolar modo in campagna è stato ed è particolarmente sentito, finito in tantissime inchieste. Ci sono stati dei segnali anche di cronaca prima di queste elezioni, gli incendi degli autobus nel cuore di Napoli, dai disoccupati che aspettavano centri di formazione. Però in questo caso a Napoli c'erano in ballo anche le provinciali, che hanno portato ad un ribaltamento storico da un punto di vista politico. Sicuramente sono tutti avvenimenti, questi elencati, che sono tenuti insieme dalla grande fame di capitale pubblico, in questo caso europeo, che deve mantenere intere strutture di welfare che lo Stato italiano non riesce più a mantenere. E al sud Italia, appunto nelle nostre zone, l'Europa è vista come una nuova cassa del mezzogiorno, cioè sempre più spesso qualcosa che deve sostenere ma tutto sommato non sviluppare. Forse lo sviluppo avviene in ambito turistico, nelle piccole realtà sane che per fortuna ci sono nel sud Italia, ma nei macro territori, intendo dire Napoli, Reggio Calabria, Bari, lì non, insomma, i capitali europei servono piuttosto davvero come un'enorme quantità di denaro che deve tenere insieme la disoccupazione con i corsi di formazione, lo sport per cercare di fare tutto ciò che i soldi dell'amministrazione della provincia non riescono a fare. Questo cambiamento a Napoli è un cambiamento che mi fa pensare molto. È difficile credere che dopo quello che sia successo in questi 3 anni, intendo dire la crisi dei rifiuti, un'attenzione sulle organizzazioni criminali avuta da tutto il mondo, da tutti i media del mondo, a Napoli si sia fatta una campagna elettorale senza neanche citare mai per una volta la parola camorra, e mai per una volta, mai, intendo dire, ma mai mai, un riferimento alle contraddizioni legate alla criminalità organizzata e all'economia criminale. Mai si è fatto riferimento al ciclo del cemento, mai si è fatto riferimento al fatto che la gran parte delle persone coinvolte in questa campagna elettorale erano persone che hanno avuto problemi enormi con le organizzazioni criminali. È sempre più difficile cercare di capire come sia possibile uscirsene da una morsa così. Cioè, io sono spesso disperato, come molti altri, immagino, laddove in passato, quello che posso leggere, quello che posso vedere, quello che posso ascoltare, in passato la battaglia politica era fatta sul contenuto soprattutto, sul confronto, sugli scontri, sulle idee. Adesso sembra tutto un gioco di mercato, nel senso, ma non di mercato liberale, di mercato, cioè di souk, di bancarella, cioè chi offre di più, tutto sommato c'è questa, appunto, posizione cinica, sono tutti sporchi, sono tutti uguali. Lo fai per affermazione privata, no? Anche questa, tra l'altro, è un'idea assolutamente bizzarra. Nessuno nel mondo anglosassone ritiene che l'attività politica non debba essere affermazione di se stesso. D'altronde in Atene era persino così. È chiaro che se voglio fare politica voglio affermare il mio talento e me stesso. Questo non significa che devo rubare, questo non significa che devo saccheggiare, questo non significa che devo essere un iperpresenzialista. Però allo stesso tempo non possiamo pensare che il politico sia un politico invisibile, senza ambizione, cioè questa visione anche monacale, da senso di colpa, no? Che spesso ha il cinico italiano, sono tutti marci, una visione assolutamente arretrata che non ci permetterà mai di avere a che fare con invece chi... Abbiamo bisogno di chi ha un'ambizione forte, di chi vuole affermare se stesso e capisce che la cosa pubblica non è uno strumento per affermare se stesso, ma quanto meglio gestirà la cosa pubblica è lo strumento per affermare se stesso e il suo talento. Questo, per esempio, io sento che è un problema. Chi è che fa politica? Quasi sempre i peggiori. A volte, per fortuna, no, ma quasi sempre i peggiori. Cioè, chi non è stato bravo a diventare scrittore, chi è stato bravo a diventare giornalista, chi non è stato bravo a diventare, spesso entra in politica. Oppure a volte, per fortuna anche adesso, c'è chi è stato talmente bravo nel suo mestiere e poi si presta alla politica. Questo ragionamento che sto facendo spesso mi sembra di leggere le pagine di Giustino Fortunato, quando il Meridionalista raccontava che nel sud Italia e nel nord Italia c'era in fondo un atteggiamento simile, ossia il figlio che aveva più talento, imprenditore, il figlio che aveva meno talento, quasi sempre editore, carta stampata, il figlio tonto, politica. Nel sud Italia uguale, latifondista, il figlio che viene, diciamo quello che è più brigone, che ha più rapporti, politica. Ma diciamo che se sei uno bravo, non è assolutamente la politica il pensiero primo che ti viene in mente di fare o quantomeno di orientare la tua vita nella politica. Questo è un problema grosso, ma anche quando si parla in una sera tra persone in privato, tua moglie o chiunque, sicuramente quando senti la parola politica hai un senso anche di amaro in bocca, cioè non è una cosa prestigiosa. Cosa fa lui il politico? Senti una sensazione anche di non rispetto, e questa è la verità. Cioè, poi appunto ribadisco, non è così per tutti i politici, non è assolutamente così per tutti gli amministratori, però vuol dire non si ha un senso di autorevolezza. E l'evoluzione del concetto del posto fisso che c'era un tempo? È anche questo, è la poltrona, è il fatto, ma poi soprattutto è il fatto che non c'è più chi ti parla al cuore e allo stomaco, perché in fondo è questo. L'amore che si ebbe per Corferati, così come l'amore che hanno spesso la base degli elettori di destra del PDL per Almirante, per intenderci. Parlava al cuore. Esatto, esatto, perché lì a quel punto perché lo rispettavi? Perché tutti ricordano a sinistra il discorso di Corferati, famoso nella manifestazione al Circo Massimo? Perché lì non si parlava soltanto del dettaglio, del numero di arresti, del numero. Si parlava di speranza, di idee. La politica, se non è questa, è finita. Non un leader a cuore freddo, insomma. No. Napoleno sola mare. Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Forse tutta l'Italia sta diventando Sicilia. A me è venuta una fantasia, leggendo sui giornali gli scandali di quel governo regionale. Gli scienziati dicono che la linea della palma, cioè il clima che è propizio alla vegetazione della palma, viene su verso il nord di 500 metri, mi pare, ogni anno. La linea della palma. Io invece dico la linea del caffè ristretto, del caffè concentrato. E sale come l'ago di mercurio di un termometro, questa linea della palma, del caffè forte, degli scandali. Su per l'Italia. Ed è già oltre Roma. Ora è molto più su di Roma, arriva fino alle pendici delle Alpi, la linea della palma. La previsione di Leonardo Sciascia nel giorno della civetta, ormai quasi 50 anni fa, si è realizzata in pieno. Le inchieste su mafia, camorra e 'ndrangheta hanno abbondantemente confermato come sempre più a nord si siano spostati gli affari della malavita organizzata. È qui, nei grandi cantieri della Lombardia, che le cosche fanno soldi e ne riciclano. Dall'alta velocità alle mire sull'Expo e nelle operazioni immobiliari in Emilia e Piemonte che i casalesi si espandono e nelle più varie operazioni finanziarie che i clan moltiplicano e allontanano i propri soldi sporchi. Ed è sempre più spesso che qui investono anche, mentre Scampia, lo Zen di Palermo, Casal di Principe, San Luca devono restare sempre uguali, perché così vuole la malavita. Magari, è la provocazione di Roberto Saviano, autore di Gomorra, almeno investissero sulle loro terre, ma invece la bellezza loro la tengono sempre ben lontana dall'inferno. Stiamo parlando di meridione adesso, sì. Dalle tue parole esce davvero il ritratto di un grande inferno, per citare il libro di Giorgio Bocca. Un grande intreccio tra economia, politica e criminalità, dove non si capisce dove finisce una cosa e inizia l'altra. Una grande palude. Tu però vedi qualche segnale, qualche scheggia di luce dentro questa grande palude, e poi soprattutto, abbiamo parlato di meridione, tu noti che invece c'è una deflagrazione di queste dinamiche, di queste degenerazioni anche verso il nord Italia. Citavamo prima Leonardo Sciascia, la linea della Palma, insomma, che ogni anno si alza e risale lo stivale. Ci sono inchieste della magistratura che parlano di infiltrazioni, si parla spesso del tema dell'Expo, dei grandi appalti dell'alta velocità. Cioè, tu vedi che inizia a esserci anche un abbassamento della guardia da parte delle istituzioni, della società civile del nord, dove tradizionalmente c'è sempre stato un capitale sociale forse più reattivo, e quindi si inizia un po' a sbragare anche qui, con un rischio ovviamente di diffondere e di meridionalizzare paradossalmente tutto il paese. Io credo che il problema sia proprio questo, cioè il nord, con nord intendo dire i cittadini e anche in parte gli amministratori, non hanno per nulla la percezione del problema criminale. Nel momento in cui non c'è sangue, nel momento in cui tutto sommato le estorsioni non vengono quasi mai denunciate, o in molte parti non ci sono neanche, non sentono il problema delle mafie, anche perché le mafie qui non sono un problema sociale, sono un problema economico. Quindi se tu parli con un lombardo, soprattutto insomma non delle zone a totale dominio ndranghetista come accade, parli con un friulano, un emiliano, non sente che il problema riguarda quello che... lo stesso problema che può riguardare uno di Casal di Principe, uno di Locri, uno di Napoli. Ma, e questa non è retorica e non è neanche una mera provocazione, ma riguarda soprattutto il nord, il problema mafioso. Le organizzazioni criminali non investono più nel sud, non conviene. Magari investissero nel sud. C'è da dire quasi, e questa sì è una provocazione, che tutto sommato, se per esempio nella mia zona i casalesi investissero a Casal di Principe i soldi che loro fanno, saranno fatti anche i soldi col sangue, ma ci sarebbe una città meravigliosa, ci sarebbero risorse possibili, ci sarebbero scuole nell'edilizia visto che loro fanno cemento, ci sarebbero molte cose, ma non lo fanno, non conviene. E poi c'è anche un'altra ragione: le organizzazioni criminali non vogliono che il territorio dove loro prendono manovalanza, dove loro prendono consenso, si sviluppino. Un posto dove vivi meglio vuoi guadagnare di più, un posto dove vivi meglio vuoi avere delle condizioni migliori. A Scampia deve restare una schifezza, perché i narcotrafficanti devono continuare a pagare 600 euro un push. Casal di Principe devono mantenerla così, perché devono contare su una forza lavoro di lavoratori edili che devono lavorare come bestie 20 ore al giorno o giù di lì. E questa è la verità, che le organizzazioni criminali non vogliono lo sviluppo anche per convenienza. Detto ciò, investono nel nord. Investono soprattutto nel nord. Lei quanto paga per lo smaltimento? Io pago 50 oggi. La sua offerta? La nostra azienda è in grado di dimezzare i costi. 25 centesimi al chilo. Ma è buono. Ma è tutto clean, come dicono negli Stati Uniti? Trattandosi di rifiuti tossici, certificazioni, stoccaggio e trasporto. Se lei ha delle perplessità, le posso dire che l'intero ciclo di smaltimento finisce direttamente nelle discariche di Marcianise. No, si figuri. È una correttezza di informazione. La nostra storia sembra scritta da un cartone alla TV. Tu ragazzina innamorata, ma viziata un po' di più. Cazzo di me. Di quando è andata questa settimana? 9.200. 9.200, sicura? La settimana passata l'hai detto un po'. 9.200. Sì, don Giro, 9.200. Io un'inchiesta che ho seguito in prima persona, in ogni dettaglio, contro il clan Zagaria, un palazzo costruito al centro di Milano, nell'ex area Mondadori, costruito da Pasquale Zagaria, da imprese edili di Parma. Loro neanche più passavano per il sud, cioè non è che l'impresa era meridionale, niente. Parma, operai del sud, tutti da sud al nord, cioè c'è l'alta preoccupazione, già espressa dal procuratore nazionale antimafia, la spartizione dei poteri. e dei mercati, alla Camorra la ristrutturazione e la ricostruzione dell'Abruzzo e alla 'Ndrangheta l'Expo. Il patto tra le nuove mafie che stanno comandando i calabresi e i campani dell'interno della Campania permetterà forse di spartirsi i grandi affari. Come? Senza che nessuno se ne accorga. Come sia possibile? Operazioni segrete? No. Una sola parola magica. Subappalti. Subappalti come li controlli? L'appalto andrà alle grandi aziende, ma poi chi fornisce il calcestruzzo, chi fornisce le pale meccaniche, chi mette sui carpentieri? Loro. Loro. Il massimo ribasso al 40%. Il massimo ribasso, con massimo ribasso intendo negli appalti. L'azienda che quindi abbatte il costo iniziale. Puoi farlo solo se hai altri proventi. Esatto. Come può fare una ditta? E infatti, su questo sono convinto, quanto già il pool antimafia di Caponnetto lo sosteneva, se nei meccanismi di appalto vince l'azienda che si propone di realizzare quel lavoro al minor costo, nel minor tempo possibile, vinceranno sempre loro. Ci devono essere altri elementi, che sia la ricerca, che sia la tutela del lavoro, che la sicurezza sia un elemento, per esempio, che ti fa vincere un appalto. Lo so che a volte sembra un discorso moralistico, a volte questo può sembrare un discorso moralistico, perché il business è business, viene prima di tutto. Quindi se tu inizi a dire la sicurezza diventa un riferimento, dall'altra parte chi sta in questo mondo dice sei un buffone, perché sai benissimo che a me serve costruire un palazzo bene, subito. Però mentre questo può sembrare un discorso retorico e moralistico, nella prima fase, sul lungo termine invece salva le aziende. Perché oggi come fa un'azienda sana a concorrere con questi? Come fa un costruttore sano a tenersi, parlo di costruttore sano a Milano, non ad Aversa? Un costruttore sano qui in Lombardia, come fa a mantenere quei livelli di abbattimento dei costi, quella velocità di esecuzione rispettando le regole? Soprattutto come fa a avere anche tutte le autorizzazioni che le organizzazioni criminali riescono ad avere con l'intimidazione? Perché le organizzazioni criminali non vincono l'appalto puntandoti la pistola in bocca, vincono l'appalto per convenienza, cioè propongono prezzi buoni. La pistola in bocca la usano per l'amministratore che ti fa problemi, il vigile urbano che sta cercando di darti fastidio o semplicemente sta cercando di far rispettare la legge, l'operaio edile che si vuole ribellare, la moglie dell'operaio edile morto sul cantiere che vuole fare chiasso. Lì loro intervengono, cioè in tutti quei piccoli problemi quotidiani che ti fermano i cantieri. E nel nord il problema adesso della crisi aumenterà la linea della palma, cioè permetterà l'infiltrazione totale. E questa non è una, né una mia paranoia né una dichiarazione del mondo dell'antimafia, è stata una semplicissima dichiarazione dell'ONU fatta dallo sportello che studia il narcotraffico, che ha detto: con la crisi il narcotraffico sta entrando nelle banche europee. Forse ci sarà sempre stato, qualcuno ha detto, adesso è certo che liquidità del narcotraffico sta entrando nelle banche. E c'è una lungimiranza in questo atteggiamento. Loro non entrano nelle banche per impossessarsi delle banche, non è stata mai, almeno per quello che ho studiato, non è stata mai una voglia delle mafie entrare nelle banche in questo modo. Loro vogliono entrare nelle banche per poter governare la ripresa economica. Quando loro saranno nelle banche potranno orientare esattamente i finanziamenti, certo, esattamente in quei settori di impresa che quando ci sarà la ripresa terranno in mano il paese. Loro per questo oggi stanno investendo, e la preoccupazione di tutti gli studiosi, perché io poi l'ho condiviso con altri, Misha Glenny, Moises Naim, Federico Varese, diciamo le persone con cui io mi confronto nello studio del crimine mondiale, tutte sono preoccupate della ripresa, perché dicono adesso questi soldi arrivano, aiutano le banche, tutto sommato nell'immediato grandissimo danno non lo fanno, ma poi che tipo di imprenditori appoggeranno? Quali gruppi imprenditori appoggeranno? Il discorso può sembrare moralistico quando uno pone vincoli non di business a queste gare d'appalto, ma sul lungo periodo tu salvi il mercato, tu salvi l'imprenditore, salvi il business sano. Detto ciò, io non credo che possa esistere un contrasto a questi capitali soltanto con la morale, con le associazioni, l'impegno della chiesa, l'impegno dei ragazzi, le scuole, l'esercito famoso di maestri da usare contro le mafie. Sono parole belle che condivido, a cui ho partecipato. Ma solo il business sano caccia il business malato. Cioè, solo se fai fare soldi sani cacci via i soldi marci. Solo se permette alle persone di guadagnare dall'antimafia. Spesso questa è una parola che può far rabbrividire. Ma tu ti deve convenire non essere mafioso. Non deve essere semplicemente giusto. Deve essere l'imprenditore e il soldato di Camorra. Gli deve convenire non avere a che fare con le organizzazioni criminali. Non semplicemente è immorale. L'imprenditore si relaziona oggi, per esempio, all'estorsione, si relaziona oggi all'acquisto di un, sempre più spesso, all'acquisto di un pacchetto sicurezza. Tu, se paghi l'estorsione, hai, oltre al fatto della sicurezza, che è il classico, però hai ti arrivano i tir se hai un supermercato in tempo, le assicurazioni, loro vanno a parlare perché hanno tanti negozi in un'agenzia e quindi hai degli sconti sulle assicurazioni. Se devi aprire il locale ti fanno avere le autorizzazioni e ti danno le loro imprese edili. Gli sconti sui prodotti, ed è emerso dall'inchiesta fatta dal PM Curcio su Parmalat Casalesi, ti danno degli sconti sul latte. Parmalat vendeva i Casalesi al 30% di sconto. Chi ce l'ha? Chi ce l'ha in Italia una gente così? E se tu paghi l'estorsione, tu hai tutti questi vantaggi. Quindi l'estorsione, questo è un altro tabù che non si può dire, in molti casi è un vantaggio. Perché l'organizzazione, in cambio di quel denaro, ti dà una serie di grande cose. Grande welfare diffuso, una grande carta sconto su alcuni servizi. Cioè... E poi uno sportello a cui puoi chiedere cose. Certo. Prestiti, senza interessi usurai, la Camorra non fa quasi mai usura. Anzi, si ritengono nemici dell'usura. Puoi chiedere tutta una serie di cose, appoggi. Ma sino poi, in realtà, faccio un esempio, i piccoli svantaggi che tu hai, li hai quando o il clan è debole e quindi tu paghi e non ti dà più niente, allora lo denunci. O per esempio il clan, come il clan Nuvoletta nel 2004, che non riusciva a pagare la tredicesima agli affiliati e fa pagare il panettone il doppio. Allora lì i salumieri erano, diciamo, qua nessuno viene più a comprare, però loro avevano imposto questa tassa, no? Poi nel paese si è sparsa la voce che il panettone portava i soldi alla tredicesima e tutti compravano il panettone per, come dire, ingraziarsi il clan. Però detto ciò, ci sono dei momenti in cui pagare l'estorsione è dannosissimo. Ma far passare l'idea che l'estorsione sia solo danno, non capiamo allora perché tutti la pagano. Sì, d'accordo che c'è paura, però se la paga Parmalat, Parmalat all'epoca aveva la possibilità di farsi scortare ogni camion. Se la paga Parmalat è, come loro dicono, se no ci ammazzavano, o è grazie a quella tangente noi abbiamo conquistato tutto il mercato gestito le mafie? Tutto. Allora l'estorsione qual è? Cos'è? È davvero un danno o tu ti stai comprando l'appoggio delle organizzazioni criminali? È una messa a posto, come dico, come da un punto di vista lessicale che indica tutto quello di cui stavamo parlando. Ma allora che deve fare chi nasce nelle terre di Gomorra e non vuole finirci dentro? Da sempre, purtroppo, la valigia è dietro la porta e anche se ora non è più di cartone, sono sempre di più quelle che si imbarcano su treni e aerei per non tornare più. E chi resta viene considerato fallito, riflette con amarezza Roberto Saviano. Storielle. Storiacce. Camorra S.P.A. come mafia e 'ndrangheta hanno fatto in modo di diventare convenienti ed è per questo che sono così insidiose, come già disse il pool antimafia di Caponnetto. Allora è da qui che, secondo Roberto Saviano, bisogna partire, dalla moneta buona che scaccia quella marcia, dagli investimenti sani che diventano più vantaggiosi di quelli a prezzi stracciati delle cosche, perché essere nella legge diventi produttivo oltre che moralmente doveroso. E in questo scenario si potrebbe interrompere il circolo vizioso per cui a certe latitudini non si può che emigrare. E l'autore di Gomorra lancia un appello all'imprenditoria grande, alle grandi istituzioni, all'università, perché si materializzino nelle terre di confine e accontentino alla fine Massimo Traisi, che diceva: chi l'ha detto che tutti i napoletani in viaggio devono essere migranti? Perché non possono essere solo turisti? Fermo restando la mancanza davvero di reattività, non solo, diciamo, etico-morale, ma anche poi di trovarci un utile nello scacciare, diciamo, la moneta marcia, no? Torniamo ad Smith. Tu però non vedi nessun elemento, nessuna scheggia di luce in meridione, cioè c'è qualche sentore che ti fa dire ripartiamo da lì? Per fortuna ci sono tantissime cose che fanno ben sperare al sud. Io posso dire che ho visto, per esempio, come lavora la parte sociale della Chiesa in Campania. Penso ai padri Comboniani o a quello che ha fatto Nogaro. Non hanno avuto assolutamente un atteggiamento assistenzialistico, non hanno cercato davvero di dare gli strumenti per cambiare le cose. Come? Permettendo, per esempio, l'aiuto a imprenditori che cercavano di fare senza allearsi a loro, dando aiuto a quegli immigrati che cercavano di fare senza entrare nel circuito della mafia nigeriana, che è potentissima nella zona di Castel Volturno, che è la zona dove ci sono i padri Comboniani. Ricordo che i padri Comboniani in genere lavorano in Africa. Guarda caso, hanno un unico presidio in Europa ed è Castel Volturno. Poi ci sono state delle scelte, secondo me solo simboliche, ma è importante partire dai simboli, di Confindustria, quando Confindustria decide di cacciare chi paga il racket. Devo dire che sono sufficienti non al contrasto, sono sufficienti all'inizio di un contrasto. Cioè, queste possono essere premesse interessanti per ripartire. L'idiozia che ha spesso la classe dirigente meridionale è quella di credere che se si parla di queste cose si sta distruggendo il paese, lo si diffama, lo si allontanano i capitali. È esattamente il contrario. Parlare delle organizzazioni criminali, soprattutto nel dettaglio, significa creare una specie di anticorpo. Nelle politiche amministrative regionali, per esempio in Campania, si è portata avanti una strategia, credo, totalmente miope. Parlare dei musei, e mentre la regione marciva tra organizzazione criminale e monnezza, le persone si sentivano, vedevano la propria terra rappresentata in Caravaggio. È proprio quella bellezza, se davvero la cogli, che ti spinge a riconoscere le contraddizioni e a trasformarle, non a nasconderle. E gli errori che hanno pagato con queste ultime amministrative provinciali è la dimostrazione, forse hanno capito male di che cosa è davvero l'amore verso la storia napoletana. È come se parlando del male tifassi per il male. È una cosa che io, da quando poi ho scritto Gomorra, mi viene praticamente rinfacciata quasi quotidianamente. È stata abbattuta una vela ormai anni fa. Sì. E le altre? Ma se quello doveva essere uno shock per il territorio, per fare in modo che si ripartisse, perché allora si è deciso che una poteva bastare la simbologia di quella frana? Se è un discorso di attività concrete da dare sul territorio, in che modo si riesce a far sì che non sia soltanto l'immagine di una vela che crolla? Le vele erano il simbolo del disagio, zozzeria, della devastazione. Quindi buttarle giù significava in qualche modo buttare giù quelle contraddizioni. Detto ciò, io considero l'ingegnere e l'architetto che costruirono quelle vele assolutamente non responsabili di quello che è successo. Le vele identiche sono nel sud della Francia e sono dei quartieri assolutamente vivibili. Addirittura lì c'era anche una specie di romantica utopia. Le vele erano costruite in modo tale da ricostruire il clima del vicolo. Questi lunghi corridoi e queste scale che sono diventati in realtà semplicemente oggi strumenti dello spaccio, anzi lo sono stati dalla prima ora. Però è vero che, come si diceva prima, cioè tutto sembra uno sforzo volontario, cioè una missione. Gli ultimi dati dicono che è ripartita l'immigrazione intramoenia, cioè dal sud al nord Italia. Cavolo, certo. Non sono più a partire le braccia come avvenne negli anni 60 e la valigia di cartone, ma diciamo l'immigrazione di cervelli, gente laureata, scolarizzata, solitamente brillante. Ecco, cosa significa questo? Questo ritorno all'immigrazione che hanno avuto le generazioni meridionali è un problema che anche questo per anni è stato messo sotto silenzio, perché nessuna amministrazione politica aveva interesse a parlare di questo problema. Molto più facile parlare del problema dell'immigrazione extracomunitaria. Il problema è gigantesco, perché la diaspora dei cervelli campani, calabresi, lucani, pugliesi, siciliani, significa interrompere la possibilità di migliorare il sud, sviluppare il sud. Spesso restano i ragazzi rassegnati, quelli che non ce l'hanno fatta andare via. Sempre meno resta chi vuole rimanere. Io sono cresciuto in una famiglia dove, quando intorno ai 24 anni, cioè appunto appena laureato, non andavo via, venivo visto come uno non ce l'aveva fatta. Negli anni passati, quando una madre aveva il figlio che faceva l'edile in Emilia Romagna, da mia parte si è molto emigrato lì, oppure andava a lavorare in qualche fabbrica del nord, i primi tempi la madre quasi per vergogna diceva no, è in vacanza, no, è fuori, adesso torna. Adesso è esattamente il contrario. Oggi, quando c'hai un figlio magari laureato che sta al sud, il padre o la madre dice sta per andare a Roma, cosa fa? Sta per andare a Milano. È una cosa che colpisce. Non andare via significa, in realtà, qui parlo proprio per esperienza personale, come ho vissuto io, non andare via significa essere un fallito. Chi è bravo veramente va via. Sinceramente, nelle realtà meridionali che io ho conosciuto, sono rarissime le persone davvero di talento e brave che riescono a resistere senza danni psicofisici, diciamo, al territorio. Il cinismo e l'apatia ti divorano, perché semplicemente perché anche la persona col più brillante talento, parlo in ogni ambito, che tu sia fabbro o musicista, dopo quello che vedi e con quel dove tutto diventa impossibile, fosse anche una tranquilla serata senza dover avere mille occhi intorno a te, se tutto diventa difficile la mandi un po' al diavolo e inizi a galleggiare. Interi territori si stanno svuotando, c'è un bel libro di Franco Arminio su questo, cioè paesi dell'Appennino meridionale ormai sono vuoti, tutti emigrano nel silenzio totale dell'opinione pubblica e dei media. E in ultimo c'è da dire che un altro tipo di immigrazione in questo senso è l'esercito. non ci si può non domandare del perché la maggior parte dei soldati che sono nelle missioni all'estero sono meridionali. Gli alpini in Afghanistan sono meridionali. Alpini meridionali già è una contraddizione. Credo la quasi totalità dei caduti a Nasseria meridionali o figli di meridionali. Tutto questo non può non far ripartire una riflessione su un concetto che spesso fa inorridire molti politici e editorialisti, la questione meridionale. La questione meridionale continua a esistere. Mi veniva in mente una frase di Giuseppe Mazzini. E il vecchio Mazzini la disse ai giovani militanti della Giovane Italia, la prima volta in cui andarono a giurare e a incontrarsi col Gran Maestro. E Mazzini disse, dovete sapere soltanto una cosa, che l'Italia sarà quello che sarà il Sud Italia. Mi ha sempre molto colpito la lungimiranza del vecchio. Per restare però è necessario che ci siano degli investimenti. Se lei dovesse rivolgersi a degli interlocutori, proprio per rendere conveniente e quindi spezzare questo meccanismo perverso che porta inevitabilmente ed esclusivamente ad emigrare, a chi si rivolgerebbe per tentare forme di investimento in questa zona dove ricompaiono delle scritte di faida? Sì, sì. Io mi rivolgerei alla grande imprenditoria nazionale, soprattutto internazionale, formazione. Portare alle grandi università, far sì che le maestranze, il Sud Italia dà la maggior parte di operai edili, non c'è una scuola, una che ti rende capomasto, una che ti rende carpentiere, una che ti rende idraulico, possono nascere lì, avrebbero i migliori insegnanti, io sono certo che tanto avrebbero gli slavi, che sono il popolo che in questo momento si sta riversando nel mercato dell'edilizia, e avrebbero ogni angolo del mondo, almeno europeo, per potersi specializzare in questi settori. Investire totalmente sulla formazione, portare le grandi università, i grandi nomi delle università americane e inglesi, che adesso si stanno spostando in India, e portarle anche in Italia. E Silicon Valley che si deve creare nel Sud Italia. Possono farlo soltanto le grandi aziende, possono farlo soltanto i grandi imprenditori, e soprattutto imprenditori che hanno uno spirito diverso, quello che fu per esempio di Olivetti. Olivetti quando a Napoli arrivò fece costruire ai suoi dipendenti delle villette, credo 60-90 metri quadri, che guardavano il mare. Cioè tutto doveva partire dal far vivere meglio. La rivoluzione partenopea, quella fatta dai giacobini poi finiti tutti impiccati, mi ha sempre colpito perché aveva nel suo progetto un diritto, che era il diritto di ogni napoletano a vedere il mare, che fu messo da Leonora Pimentel de Fonseca per fermare già all'epoca l'abusivismo. Mi ha sempre trovato concorde in questo spirito romantico di Olivetti e dei rivoluzionari partenopei il fatto che tutto dovesse ripartire nel sud dal migliorare la vita quotidiana. Perché nel sud la cosa che ti manca è che tu, per esempio, quando vieni qui, chiunque, anche io quando tentavo di emigrare, venivo qui a Milano, la sensazione era, non ho le cose, non ho la mia terra, non ho la mozzarella, non ho il mare, ma qui ho il bus che mi arriva in tempo. Bisogna ripartire dal migliorare la quotidianità. Una quotidianità infernale ti rende una persona nervosa. E l'appello è, imprenditori, venite a guadagnare dal sud, molti già lo fanno, ma soprattutto che il vostro guadagno sia quello che scaccerà il guadagno criminale. Ed è tutto per questa puntata speciale di Storiacce. Un saluto da Raffaella Calandra, grazie a Pietro Lacorte in regia. Ci ritroviamo domenica prossima alle 19:30.